Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo a parlare di Internet of Things, questa sera l'internet delle cose. Parliamo di tutti gli oggetti che per una ragione o per l'altra vengono collegati alla rete, dalle lavatrici alle automobili, dai lampioni agli ascensori e ai contatori del gas. Si tratta di un fenomeno tra i più rilevanti del nostro tempo, con importanti ricadute per quanto concerne moltissimi processi di innovazione. Ogni anno la School of Management del Politecnico di Milano presenta un rapporto sull'Internet of Things e, come ogni anno, siamo al terzo, lo riprendiamo per parlarcene. Quest'anno in linea con noi c'è Giovanni Miragliotta, che insieme ad Angela Tumino è responsabile della ricerca dell'Osservatorio Internet of Things 2013. Buonasera Miragliotta. Buonasera Melis. Allora, qualche dato economico per cominciare, direi anche in controtendenza, no? Esatto, è un mercato, quello dell'Internet of Things in Italia, che nel 2013 ha generato un valore, un giro d'affari di quasi 900 milioni di euro, crescendo del 10-11% rispetto al mercato ICT, che invece ha segnato una contrazione quasi del 4,5%. Anche il numero degli oggetti connessi è aumentato del 20%, e questi numeri sono riferiti alla parte del mercato che è più facile da misurare, quindi è quello degli oggetti che sono connessi via SIM, via rete cellulare. Ecco, che è quella che voi riuscite a monitorare, quanti sono quindi? 6 milioni alla fine del 2013, e uno sforzo di stima ci porta a dire che oggetti connessi con altre reti più difficili da intercettare potrebbero essere un altro milione. Ecco, questi 6 milioni sono composti come? La parte essenziale, preponderante, quasi un terzo, è rappresentato da auto connesse. Ok, 2 milioni sono le automobili connesse. Più di 2 milioni, sì. La funzionalità principale è quella legata alla profilazione per finalità assicurative, e in minor parte relativamente all'antifurto, diciamo le funzioni di antifurto satellitari. Va considerata anche la normativa eCall, che dal 2015 imporrà a tutte le vetture di poter effettuare una chiamata di emergenza in caso di incidente. Questo significa, unendo l'aspetto della pressione normativa alle finalità assicurative, che nel giro di 3 o 4 anni, noi stimiamo al 2016, il numero delle auto intelligenti salirà oltre i 7 milioni. Quindi auto intelligente, poi? Poi è molto importante anche il mercato relativo alla gestione degli asset, alla gestione dei beni in settori specifici come gli utility, piuttosto che non in ambiti diversi. Ecco, per esempio le macchinette, quelle maledette macchinette, no? Per le scommesse, che si trovano in tutti i bar, spesso hanno dentro... Sì, per finalità di protezione, di diciamo evidenziare effrazione alla macchina, ma lo stesso è valido per gli ascensori piuttosto che non per le vending machine. Casa intelligente, domotica, chiamiamola come vogliamo, settore da cui si attende da anni il decollo, però adesso qualcosa forse si sta muovendo, no? Hai ragione. È un mercato, quello della casa intelligente, che comunque sia la sua rilevanza. Il 10% degli oggetti connessi, quindi quasi 600.000, anche di più, quasi un quinto del mercato complessivo, riguarda la casa, ma è anche l'ambito dove si sta innovando di più, grazie all'arrivo, alla diffusione di nuove tecnologie come il Bluetooth Low Energy, che consente di legare più oggetti intelligenti attorno all'esperienza della persona utilizzando il mio smartphone, attraverso cui l'oggetto diventa visibile per regolare un termostato, l'illuminazione o altre funzioni. Ecco, perché ricordiamo, la domotica è l'idea di gestire l'impiantistica, diciamo tutto quanto c'è di tecnologico in casa, e c'è sempre più di tecnologico nelle case, in modo diciamo centralizzato, comodo e anche efficiente, gestione dell'energia, della sicurezza. Quindi queste tecnologie che in sostanza consentono diciamo di comunicare wifi a basso costo e anche a basso consumo energetico, se ho capito bene Miragliotta, stanno favorendo la diffusione della domotica, che forse prima era anche frenata da questo, no? Uno doveva spaccare, ricablare, sono operazioni non da poco. Sì, c'è certamente questo aspetto. In generale la diffusione di nuove tipologie di tecnologie wireless consente di utilizzare il cellulare come uno strumento di connessione rispetto alla necessità di dover utilizzare la wifi domestica, averla, lasciarla sempre accesa. È anche un ambito questo dove è più forte l'innovazione, la spinta, sì, che registriamo ad esempio dalle piccole start-up, quasi 2/3 delle startup che abbiamo individuato riguardano Internet of Things destinate al consumatore e l'ambiente domestico è chiaramente quello più privilegiato. Grazie Giovanni Miragliotta, ci fermiamo solo per il momento perché riprendiamo domani sera, parliamo di Smart City naturalmente, che è uno dei grandi campi di applicazione dell'Internet of Things. Grazie a voi e buonasera. A domani.